E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti. Oggi torniamo a parlare dello scudo fiscale perché il tempo stringe, la regolarizzazione dei capitali detenuti legalmente all'estero va fatta perché intendesse avvalersi di questa opportunità entro il 15 dicembre. Il rientro dei capitali ha messo in moto l'industria finanziaria italiana, che ha delle aspettative notevoli da questa operazione. Conta di spartirsi una torta da almeno, secondo le stime più prudenziali, 80 miliardi di euro, forse anche qualcosa in più. L'operazione Scudo ha sollecitato soprattutto le strutture di private banking ad attrezzarsi al meglio con servizi di investimento adeguati ai patrimoni rientranti, e proprio su questo oggi il Sole 24 Ore pubblica un rapporto, il rapporto Private Banking, dedicato all'analisi dell'organizzazione in funzione Scudo delle aree bancarie in cui ci si prende cura dei clienti con una certa ricchezza finanziaria. Si parla in genere di patrimoni superiori ai 500.000 euro. Allora, oggi sentiremo che cosa ha rilevato il Sole, ma torneremo anche a fare il punto sui vostri interrogativi relativi alla procedura da seguire per regolarizzare, per accedere alla sanatoria, far rientrare e regolarizzare le posizioni non dichiarate al fisco italiano negli anni passati. Allora, chi avremo con noi stamattina? Intanto la coordinatrice del rapporto Private Banking, la collega del Sole 24 Ore, Lucilla Incorvati, bentornata. Buongiorno a tutti. E poi Alessandro Savorana, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ben tornato anche a lei. Buongiorno. Ho avuto il piacere, grazie, di sentire in passato al telefono, ma non l'avevamo mai ospitato nei nostri studi di Radio 24. E al grazie telefono invece abbiamo l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria SPA, che è la società fiduciaria dei servizi delle banche popolari. Avvocato Vedana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Avvocato Vedana, lo abbiamo recuperato peraltro in un convegno lontanissimo da noi a Milano, in Calabria, se non sbaglio, giusto? Assolutamente, sono a Cosenza, dove c'è un ottimo sole ma poca voglia di scudo. Va bene, insomma, potrà darci anche un contributo di questo genere questa mattina. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, mi rivolgo naturalmente agli ascoltatori. Un'occhiata alla borsa questa mattina perché la tendenza d'avvio della settimana è decisamente interessante. Abbiamo una partenza molto brillante, insomma, per gli indici del vecchio continente, che stanno registrando progressi superiori al punto percentuale ovunque. Londra in questo momento guida i listini europei con un più 1,24%, segue Milano con un più 1,11%. I temi sono un po' sempre quelli, le trimestrali su cui il mercato punta, che sembrano prevalentemente positive almeno fino a questo momento. Oggi peraltro ne arriva una di peso non indifferente dagli Stati Uniti, avremo i dati di General Motors, e poi stasera Home Depot, quindi largo consumo, i prodotti fai da te, e quindi ancora una volta un test sui consumi americani. In pregilo, miglior titolo della seduta Milano, più 3,23%, segue Saipem, più 2,49%, Tenaris, più 2,14%, ancora per l'effetto trimestrale corre Intesa, San Paolo, più 2%. Abbiamo un buon andamento stamattina anche per Fiat, più 1,31%, che sostiene anche il socio di riferimento, l'azionista di riferimento Exor, più 1,95%. Ci sono i dati sulle immatricolazioni europee e a quanto pare per il mercato italiano il mese di ottobre è andato piuttosto bene, più 15% per le vendite complessivamente. Calo invece per il Banco Popolare, che sta perdendo 2 punti, segue a distanza il ribasso di Campari, meno 0,5%, Unipol meno 0,35%. E però il tema del giorno è ancora una volta il settore delle commodities, le materie prime, con l'oro che ha sfondato stamattina sui mercati asiatici la soglia di 1130 dollari l'oncia, quindi nuovo record, una tendenza determinata dal dollaro che invece è sempre più debole sull'euro. Stamattina siamo a 1,49,53. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, facciamo un po' il punto oggi di nuovo sullo scudo fiscale. È una gara di velocità tra chi sta mettendo a punto la task force più efficiente. Le banche italiane si stanno attrezzando al meglio per intercettare i 70-90 miliardi di euro che si prevede verranno rimpatriati grazie allo scudo fiscale. Consulenti fiscali e magari anche immobiliari, piani di investimento per garantire il miglior rendimento ai capitali tornati a casa. Ma è soprattutto il private banking, ovvero gli intermediari che gestiscono patrimoni a partire dai 500.000 euro, con un'elevata personalizzazione del rapporto con il cliente, che conta di intercettare la fetta più grossa, circa il 60%, sulla scorta dell'esperienza degli scudi del passato. Perché se è vero che i private banker italiani fino a oggi si sono visti sfilare, loro malgrado, la gestione dei patrimoni di molti clienti italiani da parte dei colleghi stranieri, svizzeri in particolare, ora gli equilibri si stanno invertendo. Non solo paperoni. A rimpatriare il proprio denaro, naturalmente, saranno anche risparmiatori con portafogli inferiori a quota 500.000 euro. Ma come gestire il rientro della liquidità dall'estero? E soprattutto, dove riversarla? Secondo un'indagine condotta proprio dall'Associazione Italiana Private Banking, il denaro scudato confluirà per la maggior parte in prodotti a basso rischio o a capitale garantito, dunque verso titoli di Stato e mattone, ma anche verso prodotti assicurativi e verso il comparto del risparmio gestito. Insomma, si tenderà a privilegiare o si sta tendendo a privilegiare, da quello che abbiamo capito, prodotti piuttosto, come dire, facilmente liquidabili, Lucilla, incorvati, perché, ce lo raccontava proprio Lucilla che lo ha scoperto da questo monitoraggio, molti, come dire, molti stanno tentando di far rientrare questo denaro proprio per riversarlo sulle proprie aziende. Sì, allora direi che le tendenze che emergono sono due. Una, la principale, che appunto c'è una necessità di dare ossigeno alle imprese, e quindi molti capitali probabilmente servono proprio a questo, per cui andranno su degli investimenti molto liquidi, quindi titoli di Stato o comunque appunto conti di deposito, situazioni facilmente liquidabili. La seconda ragione è che veniamo da un periodo di mercati molto molto preoccupante, e quindi sono pochissimi i soggetti che, avendo grandi disponibilità, vogliono posizionare i propri capitali su posizioni rischiose. Ricordo anche che tradizionalmente i soggetti che hanno grosse disponibilità, quindi clienti dai 500.000 euro in su, hanno profili di rischio abbastanza prudenti, anche perché sono prevalentemente in una fascia di età abbastanza alta, diciamo dai 65 anni in su, e quindi hanno profili prudenziali. Tra l'altro, ci stava raccontando anche Lucilla prima un altro aspetto piuttosto interessante. Sì, voi parlate nel vostro rapporto pubblicato questa mattina del private banking, quell'area bancaria che si occupa di patrimoni elevati al di sopra, certo, dei 500.000, ma il taglio di chi scuda sembra un po' più alto. Sì, appunto dalle interviste che abbiamo fatto in queste settimane, il taglio è un taglio che parte dai 5-10 milioni di euro in su. Ci sono sicuramente anche scudi molto più piccoli, e sempre a sentire gli operatori, ci sono anche molte situazioni cosiddette complesse, quindi partecipazioni societarie che si devono appunto smobilizzare, la cosa non è molto facile da risolvere, si attendono ancora ulteriori chiarimenti, perché ce ne sono. Un altro tema sul quale che resta ancora da risolvere è quello degli immobili, soprattutto in Svizzera, che coinvolgono moltissime persone, quindi è ancora, diciamo, uno scudo in divenire. E le stime che sono state fatte sono stime prudenziali, vediamo, anche noi abbiamo pubblicato dei numeri, ma sono numeri che naturalmente già questa mattina dovrebbero essere diversi, di nuovo diversi. Certo. Tra l'altro ricordiamo anche che nella prima formulazione della legge che permetteva appunto il rientro dei capitali si dava più tempo ai contribuenti / evasori di sistemare le proprie posizioni, e invece adesso c'è anche, come dire, una riduzione di settimane, per cui rende sicuramente tutto un po' più complicato. Dottor Savorana, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, ha avuto a che fare già con qualche situazione particolarmente complicata? Sì, sicuramente il problema più grosso è quello degli immobili. Immobili perché, come diceva la dottoressa Rosciani prima... L'ha incorvati, è lo stesso, siamo amiche. Il problema degli immobili in Svizzera è abbastanza rilevante. Sostanzialmente devo vendere l'immobile e poi il ricavato naturalmente scudarlo. Il rimpatrio praticamente è impossibile, dovrei costituire una società, per poi far affluire l'immobile e poi naturalmente scudare le partecipazioni. Ma c'è una norma, per esempio in Svizzera, molto, molto complessa, che prevede che gli stranieri non possono comprare immobili per proprie residenze secondarie come società, ma solo direttamente, personalmente. E questo è un grosso limite dal punto di vista tecnico per il rimpatrio di capitali. Per quanto riguarda poi gli scudi, in linea generale, problemi particolari sono quelli collegati agli eredi. Cioè gli eredi si trovano in situazioni per cui devono scudare, scudano, e quindi questione delle partecipazioni, questione degli immobili, per cui un po' più di tempo ci vorrebbe, sicuramente anche per... Non è così semplice smontare una situazione estera e poi naturalmente entro il 15 dicembre e riportare i capitali in Italia. C'è la tentazione di andare verso una proroga, però ancora anche lì non è ben chiaro il... Ma allora, sì, ogni tanto si sente parlare della proroga. Proroga sicuramente per gli immobili è importante, perché per sistemare questa situazione, tra l'altro non abbiamo capito come mai gli immobili devono essere, per esempio sui paesi, naturalmente con scambio di informazioni molto limitato, quindi non collaborativi, bisogna necessariamente fare la cartolarizzazione dell'immobile, quindi conferirlo in società. Nei precedenti scudi si poteva regolarizzare senza alcun tipo di problema, quindi si regolarizzava, si inseriva e poi via. Quindi anche questa cartolarizzazione è complessa, in alcuni stati non si può fare e quindi naturalmente dipende dalla legislazione del luogo. Insomma, situazione complicata, dicevamo, noi torniamo adesso, come dire, al tema di partenza, che il rapporto private banking del Sole 24 Ore e soprattutto quali servizi di investimento stanno scegliendo coloro che scudano. Allora, l'avvocato Fabrizio Vedana, società fiduciaria delle banche popolari, l'Unione Fiduciaria, come spiega il Sole questa mattina, come spiegano anche alcuni suoi colleghi di altre grandi banche, dopo un inizio tranquillo, ora l'attività di rientro sta entrando nella fase più calda, dal suo punto di vista è possibile già avere un quadro della situazione sulle modalità preferite dai contribuenti per rimpatriare? Quali servizi di investimento sono stati fino a questo momento privilegiati? Qual è la tendenza? Ma mi permetto innanzitutto di confermare che le difficoltà maggiori stanno nascendo in effetti sulle attività non finanziarie, come possono essere le quote di partecipazione agli immobili, che sono ovviamente una diversa dall'altra. Sulle attività di tipo finanziario, il cliente italiano che prima si è mosso dagli altri è il cliente di banche straniere, che prima delle banche italiane a mio giudizio hanno compreso l'effettiva portata di questo scudo e che quindi si sono già messe al lavoro durante l'estate e hanno sostanzialmente coinvolto il loro cliente in scelte che hanno portato all'utilizzo del cosiddetto rimpatrio giuridico, ovvero la possibilità offerta dalla normativa, in particolare dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 43E, di lasciare i soldi, le attività finanziarie lì dove sono, cioè presso la banca straniera, semplicemente incaricando una società fiduciaria italiana di farsi intestataria per conto del cliente di queste attività. Cosa cambia? Cambia che nella sostanza la società fiduciaria diventa il sostituto d'imposta in Italia, quindi su quei soldi, su quelle attività il cliente italiano comincia a pagare le imposte in Italia, ovviamente con il sostituto d'imposta, con un ruolo importante, ovviamente laddove è possibile in ragione delle tipologie di beni che vengono inseriti. Sui rimpatri cosiddetti effettivi, quindi il rimpatrio che comporti effettivamente il trasferimento dei beni dall'estero all'Italia, sicuramente c'è altrettanto interesse, ma devo dire che soprattutto nelle prime settimane si è visto soprattutto il rimpatrio di tipo giuridico. Sulle regolarizzazioni se ne sono viste non moltissime, soprattutto per i limiti a cui faceva riferimento il dottor Savorani, ovvero la difficoltà di poter regolarizzare immobili a St. Moritz piuttosto che a Monte Carlo, piuttosto che a Dubai, che sono tre paesi che non cito a caso, ma dove un certo numero di italiani ha fatto in passati più o meno recenti acquisti immobiliari. Benissimo. 800 24 00 24, ma soprattutto vogliamo raccontarvi quello che ha scoperto anche il rapporto Private Banking delle Sole 24 Ore sulle modalità di investimento di chi decide di regolarizzare e rimpatriare appunto capitali detenuti all'estero. Lucilla Incorvati, allora, che cosa avete scoperto per l'appunto? Con che criterio di opportunità stanno scegliendo come investire le somme rimpatriate chi decide di approfittare di questa sanatoria? Beh, dicevamo appunto che è molto probabile che in questa primissima fase si scelgano delle soluzioni molto semplici, quindi conti di deposito oppure titoli di Stato o comunque fondi comuni, quindi prodotti e servizi facilmente liquidabili per due ragioni. La prima ragione è che sicuramente molti flussi servono agli imprenditori per ridare ossigeno alle imprese. La seconda ragione è che veniamo da un periodo in cui i mercati finanziari hanno dato non poche delusioni anche a chi ha grosse disponibilità finanziarie, e quindi l'atteggiamento è sempre molto più prudenziale. Vorrei aggiungere che le banche che si occupano di servizi di private banking sono oggi estremamente disponibili nei confronti di questa clientela, perché vengono da anni un po' critici e quindi anche il cliente paperone, chiamiamolo così, oggi ha sicuramente dalla sua un'arma in più, quella di negoziare prezzi e i costi di prezzi e servizi, perché l'industria del private banking in Italia è stata costituita proprio negli anni in cui c'erano stati lo scudo 1 e lo scudo 2, ma in passato molti di questi capitali rientrati erano poi andati a finire o nell'immobiliare o erano rientrati nuovamente all'estero. Per cui oggi si cercherà di trattenere questa clientela, e quindi, ripeto, probabilmente rispetto al passato ci sarà più possibilità di negoziare prezzi da parte dei clienti. Un altro aspetto di non trascurabile importanza, ce lo dicevamo a microfoni spenti con il dottor Savorana, è l'aspetto della stretta del credito che è in corso in questo momento. Pertanto forse questo può anche rappresentare un modo per rinsaldare un rapporto che si è andato sfaldando tra banca e cliente negli ultimi anni, perché ovviamente i patrimoni dati in gestione non hanno reso granché per colpa della crisi, ma a volte anche per colpa, insomma, delle inefficienze del nostro sistema finanziario di gestione di grandi patrimoni. E insomma, questa è anche, come dire, una contropartita molto interessante in questo rapporto, dottor Savorana. Sì, assolutamente. Cioè, le aziende che sono in crisi o che hanno una stretta del credito, laddove praticamente il titolare, il dominus, i soci di questa società fanno rientrare il capitale, va praticamente a garantire i finanziamenti in corso che sono stati fatti alle aziende. Quindi sicuramente quello è un motivo per cui quei capitali direttamente o indirettamente sono asserviti all'azienda. Questi capitali poi possono rientrare all'interno dell'azienda attraverso gli aumenti di capitale o versamento soci o rimborsi per rimborsare poi il debito. Ovviamente si perderà la secretazione, perché è normale che nel momento in cui io veicolo questo denaro automaticamente si perderà. Però fondamentalmente questo può essere uno dei motivi che spinge a fare lo scudo, laddove la stretta del credito è particolarmente forte e la società ha bisogno assolutamente di denaro liquido. Lo scudo porta praticamente a far rientrare certo, capitale. Rientra il capitale, lo riporta magari nella stessa banca con cui ha rapporti da tempo, dice: guardi, adesso sono in grado di darti un po' più garanzia rispetto al passato, per cui non farmi mancare un po' di ossigeno come hai fatto negli ultimi tempi. E allora 800240024, numero verde ancora per i vostri interventi. Sentiamo Mario da Bergamo, poi ritorno naturalmente in Calabria da Fabrizio Vedana. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno, gentilissimo avermi chiamato. Grazie a lei. Volevo fare due domande brevissime. Una, ho sentito spesso parlare della liquidità, cioè il rimpatrio viene poi utilizzato per liquidità perché verrà a ossigenare le aziende o quant'altro. Un po' una congettura, ipotesi che abbiamo fatto noi, sì. Esatto, mentre invece una crisi dei mercati a medio e lungo termine è giusto anche investire sul mercato azionario, visto che ha stornato notevolmente. Seconda domanda importante: avete qualche novità in memoria di disposizione di legge per via di chi ha gli hedge fund fatti nel Liechtenstein o in Lussemburgo, che purtroppo non si possono vendere nel tempo breve del 15 dicembre, ma andranno oltre? Ci sono delle novità normative, ci sono delle nuove normative? Allora, guardi, sicuramente non me ne ricordo io, Mario, però vado dall'avvocato Vedana, perché insomma il nostro ascoltatore fa riferimento a delle partecipazioni o comunque a dei capitali che hanno una natura piuttosto complessa anche in funzione del luogo in cui sono, come dire, fiscalmente adesso presenti. Beh, diciamo, è evidente che il tema che ha toccato il signore è un tema molto delicato e non è un caso che la stessa Agenzia delle Entrate abbia già fatto una prima apertura con la circolare 43, lasciando un po' più di tempo per quelli che non riescono a smontare strutture o non riescono a completare lo scudo comunque entro il 15 dicembre. Quindi è un problema che è noto. È un problema noto ai tecnici dell'Agenzia delle Entrate. Non è un caso che l'emendamento che è stato presentato da Fleres alla finanziaria 2010 è un emendamento che pare punti proprio a consentire di utilizzare lo scudo anche dopo il 15 dicembre per superare le difficoltà legate soprattutto allo smobilizzo di immobili e di partecipazioni. Sull'Liechtenstein e Lussemburgo ovviamente poi c'è tutto il capitolo fondazioni e trust che meriterebbe probabilmente una puntata intera di Salvadanaio, ecco, però è un tema sul quale ovviamente da fare i conti anche con chi gestisce e con quali sono le finalità per le quali questi strumenti. Quindi tanto per dare così un'indicazione concreta al nostro ascoltatore, a Mario deve ancora aspettare un pochino. Ma io suggerirei di aspettare ancora qualche giorno, perché l'agenzia ha promesso di uscire in tempi brevi con una circolare esplicativa ulteriore che probabilmente darà ulteriori chiarimenti su queste situazioni molto particolari. Quindi insomma, Mario, io opero in palese conflitto di interessi, tenga sotto controllo il Sole 24 Ore, perché sicuramente insomma per la mission e per la sua natura non potrà far altro che dare l'ampio risalto necessario appunto alla indicazione dell'Agenzia delle Entrate che in molti aspettano probabilmente. Allora, dottor Savorana, c'è una domanda per lei da Bruno da Milano, perché insomma l'abbiamo chiamata anche per aiutarci a definire la questione delle proprietà immobiliari all'estero, e sentiamo un po' Bruno di che cosa ha bisogno. Bruno, benvenuto. Buona giornata. Anche a lei. Buona giornata. Senta, io ho acquistato, quando lavoravo in Spagna, a Madrid, un appartamento, perché sono vissuto là per oltre 15 anni. Sì. E chiaramente mi è convenuto. Prima che il mercato immobiliare volasse, Bruno, anche là? Sì, sì. Ho fatto un bel investimento. In questo momento chiaramente non mi conviene assolutamente vendere. Ma no, ma perché disfarsi di una bella casa a Madrid? Ma se la goda, ecco. Anche perché comunque io là pago le tasse, perché pago 900 euro all'anno. Però non ho capito cosa devo fare con questa casa, perché io in Italia non mi risulta. Allora, quindi praticamente il fisco italiano è totalmente non a conoscenza del fatto che lei ha una proprietà immobiliare in Spagna. Sì, perché io pago le tasse là. Lei dove vive adesso, Bruno? Adesso a Milano. Benissimo. Dottor Savorana, allora, che consulenza facciamo al nostro ascoltatore? Allora, il nostro ascoltatore, gli diciamo che potrebbe fare una bellissima regolarizzazione con lo scudo, perché la Spagna è un paese che scambia informazioni amministrative. Lui dovrebbe dovuto indicare il suo immobile nel famoso RV, quadro 2, due punto. E quindi può fare la regolarizzazione indicando il prezzo di acquisto dell'immobile, non dovrà... Pur essendo avvenuto 15 anni fa l'acquisto? Assolutamente. Non ha approfittato dello scudo 1-2? Vabbè, lo approfitta adesso, perché non è un problema. Non è un problema, perché alla fine lui avrebbe dovuto comunque indicare sempre nel quadro RV l'immobile tutto in Spagna, perché è produttivo di reddito per la Spagna. Però lui dice ci pago le tasse già là. Sì, ma le tasse là può utilizzare il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, poi direttamente in Italia. Quindi lui può benissimo fare una regolarizzazione, indicare l'immobile, non deve dichiararlo nel prossimo RV della prossima dichiarazione, ma lo dovrà fare praticamente nel 2010, cioè nella dichiarazione di unico 2011. Quanto gli incosta questa regolarizzazione? La famosa aliquota del 5% va pagata sul valore dell'immobile, sul costo di acquisto dell'immobile. Quindi deve risalire al valore appunto pattuito per la compravendita di 15 anni fa. Perché tutto sommato gli potrebbe anche andare bene, visto che non era ancora esploso il mercato immobiliare né in Italia né in Spagna né in nessun'altra parte del mondo. Non ha problemi di rimpatrio. Benissimo. Lucilla Incorvati, Marco Conte sul rapporto Private Banking pubblicato stamattina dal Sole ha intervistato un evasore, lo possiamo definire così, che esprime tra l'altro tutti i suoi dubbi paradossalmente sulla sanatoria dal suo punto di vista, chiedendosi, visto che ha approfittato anche delle precedenti opportunità di scudo, ma una volta che ho riportato i miei capitali sotto il controllo del fisco italiano al di là dell'aliquota del 5%, chi mi garantisce che non succeda quanto è accaduto negli ultimi mesi, cioè che vada in gran parte perduto con la bolla del credito? Questo è purtroppo una cosa che può accadere, tanto che i soldi restino in Italia, tanto che i soldi restino in Svizzera o in un altro paese, perché sappiamo bene che ormai i mercati finanziari sono veramente internazionali, cioè i clienti che hanno delle posizioni importanti hanno un servizio, vengono appunto posizionati su dei servizi e dei prodotti, direi su scala internazionale. Quindi anzi, a sentire un banchiere che ho intervistato settimana scorsa, mi ha detto che questa sarà una grande occasione per le banche italiane, perché molti clienti italiani che avevano i soldi in Svizzera sono stati colpiti dal, appunto, la bolla molto di più di tanti che avevano i soldi in Italia, quindi direi che è un falso problema, sì, quello, diciamo, di dire secondo, che è sfiduciato nel sistema finanziario italiano, assolutamente, bancario italiano, secondo perché... me abbiamo avuto noi nel corso del 2008-2009 la chiara visione di quello che accade a livello internazionale, quindi direi che oggi chiedere posizione all'estero forse è conveniente che si metta, voglio dire, in regola con il fisco italiano e non si ponga questo come problema, ecco. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi. Vedo che stanno cominciando adesso le richieste di intervento ad infittirsi e quindi segno che qualcuno che ha ancora una problematica aperta c'è, e vedo che anche ci sono molti titolari di società all'estero che non hanno ancora ben capito come regolarsi, come per esempio con la Romania. Addirittura c'è un ascoltatore che vuole chiamarci, adesso vedremo se riusciremo a sentirlo, un ascoltatore che ha un immobile a Santo Domingo, adesso vediamo. E però c'è anche Rosangela da Milano. Rosangela, buongiorno, io so che lei ci ha scritto. Buongiorno. Non abbiamo avuto ancora di risponderle perché ci arrivano sempre tante mail, smistarle e sistemarle per noi è un problema, quindi sono contenta che stamattina lei si sia fatta viva con noi per poterle rispondere rispetto al suo caso. Ci racconti di nuovo tutto. Grazie a voi. Senta, sono pensionata dal 1 gennaio 2007 e sono titolare di stock option che ho ricevuto durante l'attività lavorativa e che ancora non ho esercitato. Sì, però il problema è che le ha ricevute da una società che è americana? Ecco, l'azienda è statunitense. Ecco, io ritengo che le stock option siano in un deposito calderone. Perché, diciamo, per poter visualizzare la mia posizione io entro in internet con un mio user ed una password e quindi, diciamo, vedo la mia posizione di ex dipendente. Sì. Ecco, io mi domandavo, ma per questo rimpatrio, che suppongo sia di tipo giuridico, perché appunto non ho monetizzato queste stock option, sono ancora, diciamo, una quantità così, come dire, aleatoria, nel senso che ancora non ha materialmente... Esatto, probabilmente realizzerò zero. Ah, sì. In considerazione dell'andamento borsistico e del prezzo a cui erano state attribuite. Ecco, volevo chiedere appunto, per questo rimpatrio giuridico deve provvedere l'azienda o cosa si deve fare? O ci deve pensare lei come contribuente? Che bella domanda. Ecco, mamma. Senza fra l'altro... Volevo, siccome sento spesso parlare del quadro RV, sì. Ecco, io nel quadro RV non ha mai messo niente, non ha mai indicato nulla. Allora, adesso abbiamo un legale e un commercialista, sentiamo un po' se possono darci una visione comune rispetto a questo problema. Avvocato Vedana, posso cominciare con lei o già svenuto rispetto a questo caso? No, sono casi che abbiamo già affrontato, evidentemente. Benissimo. Innanzitutto il tema rimpatrio giuridico o non rimpatrio giuridico è comunque di stretta pertinenza del contribuente, quindi la società non ha nessun obbligo in questi termini. In realtà subisce le scelte, le decisioni che vengono prese dal contribuente, quindi è il contribuente che si deve recare da quello che io chiamo amichevolmente il confessore di fiducia, l'intermediario italiano, la banca, la fiduciaria. Sottoscrive la dichiarazione riservata, può, in questo caso se la stock option è statunitense, può optare anche per la strada della regolarizzazione, perché gli Stati Uniti sono considerato paese virtuoso. È evidente che da un punto di vista fiscale, ma qua sarà meglio di me Savorana a rappresentare il tema, bisognerà capire se queste stock option sono relative a partecipazioni qualificate oppure no, perché se sono qualificate bisognerà fare i conti comunque con l'inserimento in dichiarazione dei redditi. Mi pare se di capire di no, però no, invece il discorso può essere gestito da un sostituto d'imposta come può essere la banca piuttosto che la fiduciaria. Sentiamo allora Savorana. Così, sì. Se la partecipazione non è qualificata, non ci sono proprio problemi. Non credo che sia di questo tipo. Sì, quindi, insomma, per dare proprio un'indicazione pratica ad ascoltatrice, Rosangela, cosa deve fare? Andare da un bravo commercialista come il dottor Savorana e insomma praticamente che moduli deve compilare, provo. Cosa deve fare questa ascoltatrice? Deve andare da un intermediario, quindi va in banca, da una società fiduciaria, può optare o per il rimpatrio giuridico, quindi potrà sostanzialmente prevedere la possibilità anche tramite una società fiduciaria di aprire un subdeposito, un conto direttamente negli Stati Uniti d'America, oppure può fare la regolarizzazione, quindi la regolarizzazione è sempre tramite l'intermediario e quindi ovviamente verificare. L'unica cosa che volevo capire dalla signora... Ancora Rosangela in diretta, sì? Dunque, ha parlato di stock option, sì. Ma lei ha esercitato la option? No, sono al momento queste stock option sono un numero, sono una quantità che veniva attribuita in anni particolarmente felici. Felici, esatto, come hanno fatto molte aziende. Appunto, al raggiungimento di un certo prezzo, tra l'altro questo prezzo doveva essere mantenuto, se lo ricordo bene, nell'arco di 3 anni. Quindi c'erano certe condizioni per l'esercizio, sì? Esatto. Da quel momento potevamo esercitarle. Quindi al momento queste stock option sono esclusivamente una quantità, non hanno un valore. Quello che so è che nel momento in cui io eserciterò, ora che sono in pensione, l'azienda rilascerà poi una dichiarazione che spedirà direttamente all'INPS e l'INPS poi provvederà ad aggiungerlo al mio... A liquidarle a lei. Esatto. Guardi, non so se la liquidazione la ricevo direttamente, forse la liquidazione la ricevo direttamente e la tassazione avviene come incremento della pensione che attualmente percepisco. Sì, con il caso di Rosangela abbiamo peraltro terminato. Salvadanaio, dottor Savoran, ci deve aiutare negli ultimi 30 secondi come orientarci, perché io mi sono già persa un bel po' di tempo fa con questo caso. È una questione abbastanza complessa, perché si tratta di non aver ancora esercitato la option, quindi non avere ancora materialmente anche le azioni. Se le condizioni per l'esercizio poi non maturassero questo mai. Questo è uno dei problemi che è stato sollevato. Noi speriamo che tra l'altro uno del Ministero dia un chiarimento nella prossima circolare, perché di fatto allo stato attuale sono solo stock, option, ma non è stata esercitata l'opzione, non ho ancora le azioni in mano. Queste opzioni probabilmente dovevano essere pagate a un prezzo prefissato, cosa che non è stata fatta. Se invece sono già state pagate, è già stato pagato il warrant o comunque il diritto, allora ho comunque un'attività finanziaria che andava indicata. Credo quindi che deve essere regolarizzata. Debba investire, purtroppo per lei, in un bravo commercialista che comunque la sappia un po' guidare in questa faccenda. Prendendo conto ha un diritto che non ha ancora esercitato. Esatto. Quindi allo stato la signora non ha assolutamente avuto una plusvalenza e la tassa va pagata su un accrescimento di valore, quindi per cui allora magari meno è uno meglio dei sì, che esatto. Tipo di stock option è infatti, non so se l'avvocato Vedana è d'accordo. Io purtroppo non posso dargli la parola, però, perché no, come sento c'è la saluto. Sigla benissimo. Allora io vi ringrazio tutti e tre, perché se l'argomento è un po' indigesto siete stati simpaticissimi, abbiamo cercato di renderlo assolutamente praticabile per tutti, non riusciamo a rispondere agli ascoltatori. Io invito Giancarlo e Enrico a scriverci, girerò le domande a Savoran e Vedana così imparano. Noi ci sentiamo domani, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. We'll be right back.